ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di nuovo del NADEF, cioè dell'aggiornamento del DEF, del documento economico-finanziario, che con una settimana di ritardo rispetto a quando ce ne siamo occupati, stasera dovrebbe, condizionale d'obbligo, arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo. Vi sarà tutta la cornice di carattere macroeconomico, quindi il deficit atteso poco sotto l'11% quest'anno, poi scenderà al 7% nel 2021, il crollo del PIL meno 9% quest'anno, più 6% l'anno prossimo e un più 2% nel 2022, il debito 158% del PIL quest'anno, con l'obiettivo di portarlo al 150% alla fine del 2022, quindi inizio 2023. Mentre sul deficit l'ipotesi di portarlo al 3%, che era la soglia del patto di stabilità che è sospeso attualmente nei paesi dell'area euro, dicevo, la soglia del 3% è prevista per il 2023. Il governo chiaramente punta a fare affidamento sulle risorse in arrivo dal recovery. Per quello che riguarda la manovra dell'anno, 15 miliardi di sussidi a fondo perduto, che per loro natura, essendo a fondo perduto, non hanno impatto sul deficit. Questo per quello che riguarda i fondi a disposizione per l'anno prossimo. Di questo parleremo in apertura. Poi, come sempre, l'appuntamento con Dietro la Notizia con Alessandro Platerotti. Oggi ci occuperemo di un, se possiamo così dire, un grande assente in tutte le iniziative per contrastare la recessione pesantissima causata dal Covid. Il grande assente è il Fondo Monetario Internazionale, era sempre chiamato in causa per crisi locali, penso all'Argentina, ma non solo. Ci si chiede anche che fine abbia fatto il Fondo Monetario Internazionale, perché l'Italia contribuisce con svariati miliardi di euro al Fondo all'FMI. E poi parleremo invece di un'altra vicenda che riguarda il nostro paese, ma insomma via libera tra la fusione tra Nexi e SIA. Quindi hanno firmato quello che si chiama Memorandum of Understanding. Lo hanno firmato Nexi, SIA, Cassa Depositi e Prestiti, Equity e Mercury. Nascerà sostanzialmente un soggetto italiano di dimensione europea per quello che riguarda il mondo, diciamo, del Nexi. Sapete che gestisce pagamenti elettronici, ma insomma è una infatti si chiama in gergo, sarà una nuova paytech italiana leader in Europa per i pagamenti digitali e servire tutti i segmenti di mercato, dai servizi di accettazione dei pagamenti digitali all'e-commerce e quant'altro. Ne parleremo nel dettaglio. Gli azionisti di SIA riceveranno 1,57 azioni di Nexi per ogni azione SIA e gli attuali azionisti di SIA riceveranno una quota del 30% del capitale del nuovo gruppo, mentre gli attuali azionisti di Nexi manterranno il 70%. Poi CDP avrà una quota complessiva del capitale di poco superiore al 25% e Mercury, che è il veicolo dei fondi di private equity Clessidra, Advent e Bain Capital, avrà il 23%. La capitalizzazione del nuovo gruppo a livelli attuali di borsa sarà di circa 15 miliardi, una delle prime 10 società per capitalizzazione in Italia. E quindi è arrivato l'accordo su questo. Non è un mistero che il governo poi punti molto, ne abbiamo parlato, al sistema di pagamento cashless, cioè il rimborso di parte dei pagamenti fatti, diciamo, con denaro con la carta e non con il contante, e poi anche l'ipotesi di lotteria. Questo non c'entra direttamente con l'operazione, però insomma è interessante notare che mentre si punta anche in manovra al cosiddetto cashless, cioè i pagamenti senza contanti, nasca un gruppo di questo peso anche a livello europeo. Parlavo della borsa, e allora Nexi va bene, più 2%, ma non è il miglior titolo. Il miglior titolo è Poste Italiane, più 4,60, Saipem, più 3,90, Diasorin, più 3,60, Recordati, più 3,5, Telecom, più 3,5, come CNH, Mediobanca, più 3,20, Azimut, più 2,80, come Pirelli, Eni, più 2,20, come appunto Nexi e Interpump, ma anche Intesa San Paolo. E il 2% lo guadagna anche Finecobank. Perde Biper Banca al 7,60%, e perde il Banco BPM l'1,60%, in calo anche Era, meno 1,40, e nel meno 1,20 come Ferrari. È chiaro che Poste Italiane si in qualche modo avvantaggia perché è azionista di SIA, e dai calcoli fatti otterrebbe circa 400 milioni di plusvalenza con la fusione. Biper, è partito l'aumento di capitale per acquistare le filiali di UBI Banca che verranno cedute da Intesa San Paolo, e la reazione, appunto, azioni e anche i diritti sono calati pesantemente in borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, partiamo dalle notizie di carattere internazionali. C'è una corsa del petrolio oggi, vediamo se verrà confermata, del 5% circa del WTI, che però ha livelli ancora bassi, $39 al barile. Il Brent anch'esso 5% a $41 al barile. Per quello che riguarda invece gli effetti della pandemia sull'economia, insomma, la situazione, come sapete meglio di me, non è che stia buttando benissimo. Da mercoledì vi saranno 9 quartieri a New York in lockdown. I quartieri vanno da Brooklyn a Queens perché considerati focolai di infezioni. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse, e anche i ristoranti che servono all'aperto, da mercoledì appunto. A Parigi, la stretta delle regole sanitarie su Parigi, che è passata da a zona di massima allerta, rosso scarlatto, lo dicono i francesi, resterà in vigore per 15 giorni perché i limiti sono stati superati, 260 contagi ogni 100.000 persone. Il prefetto di polizia di Parigi ha confermato che a Parigi i bar saranno chiusi da domani per 15 giorni, mentre i ristoranti saranno aperti con un protocollo di restrizioni rafforzate, cioè nello specifico massimo 8 persone a tavolo, prendere i nomi di tutte le persone che vengono a cena. Sarà vietato il consumo di alcol nelle strade, i mercati resteranno aperti, chiuse invece palestre e piscine, aperte solo per i minorenni. Quindi un lockdown con tanti, diciamo, con un po' di deroghe. Oggi il nostro GR24 hanno raccontato dei 159 casi tra lo staff della Commissione Europea, la von der Leyen che si era messa in autoisolamento, però oggi il portavoce ha annunciato che il risultato dell'ultimo test è negativo per la Presidente della Commissione Europea. In questo ho visto molte polemiche, ho letto con interesse, come sempre faccio, Milena Gabanelli su Data Room. È interessante il fatto che, insomma, non vi sia a livello mondiale nessun organismo che possa stabilire se la Cina deve o meno dare delle riparazioni di carattere internazionale. È chiaro è che questo arriverebbe solo se venisse dimostrato che la Cina ha nascosto informazioni e quindi ha aggravato quello che è l'effetto pandemico e quindi anche il danno economico. Io faccio notare che l'ultima stima è di un danno all'economia sostanzialmente che viaggia verso i 15 mila miliardi di dollari per le economie mondiali. Si stimano 17 mila miliardi di dollari. I paesi OCSE hanno visto passare la disoccupazione dal 5,3 al 10% quasi, e il commercio globale è sceso del 18%. Ma non solo, oltre che la disoccupazione sono aumentati i deficit più o meno del 20%, ricordavo appunto nel nostro aggiornamento sul DEF. Ora, è chiaro che non esiste un soggetto come il Tribunale dell'AIA, per intenderci, a livello internazionale, non è responsabilità del Fondo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, e quindi sarà difficile chiedere eventuali danni alla Cina, anche perché dovresti prima dimostrare che la Cina ha rallentato le misure precauzionali, cioè ha ostacolato la trasparenza. Insomma, il problema è che la Cina sta rifiutando ogni commissione d'inchiesta. Poi sarebbe molto sia sui mercati umidi, wet markets, sia chiaramente sulle origini del virus. Tra l'altro, mercati che avrebbero dovuto essere chiusi già quando partì la SARS nel 2002, ma le autorità non sono mai intervenute seriamente. Quindi l'accusa di negligenza e di aver messo poi, non a rischio, di aver messo in ginocchio l'economia mondiale potrebbe essere avanzata se tu dimostrassi che A, il virus è partito da quei wet markets, che B, la Cina non aveva ottemperato a richieste già arrivate nel 2002 di mettere in condizioni igieniche decenti quei wet markets, e via così. La richiesta è arrivata da 194 paesi, ma Pechino continua a negare un'inchiesta interna. Faccio però notare che nel frattempo, mentre tutte le economie sono in ginocchio, l'economia cinese quest'anno chiuderà con un più 1,9%, che è poca roba per la Cina, però è in segno positivo che ha avuto un aumento dei consumi interni, anche perché i cinesi non stanno viaggiando e quindi stanno consumando internamente. Ho visto un dato sul lusso che va molto bene, le vendite di lusso in Cina. Le esportazioni cinesi, soprattutto di materiali sanitari, apparecchiature elettromedicali, sono salite del 10%. Quindi non voglio dire che se ne stia avvantaggiando, ma sicuramente che è il paese che ha meno danni in questo momento. E il danno reputazionale c'è, e spero che venga mantenuto se la posizione di Pechino è quella di chiusura totale, di negare. Ma negare che cosa? Perché non ha mai spiegato secondo loro che cosa è successo. Non si può dire che non vi sia una responsabilità. Certo che poi uno dovrebbe anche analizzare come hanno reagito alcuni paesi, per esempio gli Stati Uniti all'inizio, la Gran Bretagna all'inizio, il Brasile all'inizio. Faccio notare che i tre leader di questi paesi, perché esiste anche così una democrazia di questo virus, quindi Johnson, Bolsonaro e Trump, poi il Covid hanno beccato. Ma questo è un conto, ma è ovvio che l'obiezione potrebbe essere se tu dimostrassi che un allarme dato subito, quindi già a metà dicembre, a più tardi inizio gennaio, e sulla gravità della situazione, sull'utilizzo delle mascherine, che invece poi sono state vendute dalla Cina ai paesi europei, avrebbe ritardato e rallentato e ridotto moltissimo il danno. Beh, insomma, questo potrebbe portare la Cina sul banco degli imputati. Il problema è che manca il banco, non gli imputati in questo caso, manca l'organismo. Allora, veniamo a due dati europei. Uno riguarda l'inflazione, forte calo nell'area euro, l'abbiamo già detto, nel mese di agosto meno 0,5% in Italia, ma comunque è tutta l'area euro in deflazione. La Germania è a zero, in Regno Unito è 0,5, Francia 0,2, e quindi insomma il dato complessivo dell'area euro è intorno all'1%, che è una non inflazione. Ma per quello che riguarda il commercio al dettaglio, il mese di agosto è andato bene, nel senso che in molti paesi, inclusa l'Italia, erano già state eliminate molte delle misure di contenimento legate al Covid 2019. Quindi ha fatto più 3,7% nel rispetto al mese precedente, e invece più 4 rispetto a un anno prima. Nel complesso, rispetto al mese precedente, hanno fatto più 6% i prodotti non alimentari e quelli su internet più 12%, più 2,4% settore alimentare, bevande e tabacco a livello europeo. E poi i maggiori aumenti si sono osservati in Belgio più 9,6%, Francia più 6,2%, Germania più 3,1%, in calo Romania e Slovenia. Il dato italiano sulle vendite al dettaglio di agosto non è disponibile, invece è disponibile l'andamento dei servizi del responsabile acquisti, cioè quello che si chiama PMI, e il responsabile acquisti sale a 48,8 punti. Ricordiamo sempre che i 50 punti denotano la recessione, la crescita economica oppure la stagnazione barra recessione. L'anno scorso l'indice viaggiava a 51,4 punti, quello dei servizi a 40 punti, quello composito a 50 punti, meglio quello tedesco a 54 punti, peggio invece quello spagnolo a 44 punti. Quindi l'Italia si colloca nella forchetta medio-alta dell'indice che misura le intenzioni dei responsabili degli acquisti. Allora, vediamo le entrate fiscali. Da un lato c'è stato oggi il dato è molto significativo, perché nel periodo gennaio-agosto 2020 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 271.566 milioni di euro, 271 miliardi, una riduzione di 16 miliardi e 6 rispetto ai primi 8 mesi del 2019, meno 6%. Questo è dovuto soprattutto dai vari interventi normativi che hanno disposto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per alcune categorie di contribuenti. Ora ricordo che c'è stato anche il mancato pagamento delle cartelle esattoriali, bloccato fino al 15 ottobre grazie al DL agosto che è al Senato adesso, e che tra le altre cose prevede, oltre alla sospensione delle cartelle, prevede anche la sospensione dei pignoramenti, i bonus per i lavoratori stagionali vale 25 miliardi, l'estensione della cassa integrazione di 9 settimane più 9, 18 in totale, fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre, legata però al confronto con il fatturato aziendale, e lì c'è una diversa rimodulazione. Confermata anche una tranche per il reddito di emergenza e la proroga delle scadenze fiscali. Le tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine del 2020. La prima scadenza sarà il 16, arriverà dopo, il restante 50% di ritenute dovrà essere versato nel 2021, IRPEF, IVA, contributi INPS. Però attenzione, è l'esenzione dell'IMU per discoteche e le imprese turistiche dello spettacolo, perché dicevo nel 10 agosto è stato appunto bloccato il pagamento delle cartelle esattoriali fino al 15 ottobre. Non c'è al momento un'ulteriore proroga e quindi dal 16 ottobre potrebbero essere recapitate fino a 9 milioni di cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il ministro Gualtieri oggi però ha detto abbiamo chiesto, diciamo, all'Agenzia delle Entrate di partire con grande gradualità. Noi abbiamo rinviato molte tasse, anche alcune che si dovranno pagare a novembre abbiamo rinviate a aprile, quindi siamo stati tra i governi che più ha giustamente intervenuto per consentire di dilazionare i pagamenti tributari, e lo stiamo facendo, e appunto abbiamo preso delle misure importanti anche nel decreto agosto. Abbiamo anche sospeso per parecchi mesi tutte le cartelle, e siccome poi queste si accumulano, diciamo così, per troppo tempo tenere questa sospensione non è saggio. Noi facciamo un'altra cosa, noi abbiamo detto all'Agenzia delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità, quindi non ci sarà, ma semplicemente, ovviamente, anche perché parliamo di, diciamo così, debiti verso il fisco precedenti, che non c'entrano niente col coronavirus, di cose di anni precedenti, e che naturalmente è giusto che tutti i contribuenti saldino, ma naturalmente avendo il tempo necessario, e quindi ci sarà la necessaria gradualità. Oh. Dunque, dicevamo delle misure dagli altri paesi. Qualcuno mi sta scrivendo, ma questo vuol dire che anche noi ci allineeremo con la Francia. Allora, mettiamola così. Ho detto governo, è intervenuto, non è intervenuto. Mettiamola così. A marzo noi fumo i primi, ahimè, fine febbraio-marzo, a dover decretare lockdown in Europa e a così tracciare la strada. Adesso è chiaro che, essendo la situazione di gran lunga peggiore in Francia e in Spagna, in parte anche in Gran Bretagna, noi non abbiamo più l'onere di essere i primi a dover decidere cosa fare, ma è chiaro che si va a vedere quello che faranno gli altri paesi. Allora non ci vuole un genio per capire che, anche se adesso Palazzo Chigi, se ben ricordo, ha smentito che vi possono essere chiusure di esercizi commerciali poco fa, adesso vi do l'agenzia, erano circolate numerose notizie, però è chiaro che uno guarda quello che fa la Francia e la Spagna e cercherà di capire poi se serve o no. Perché lo dico? Perché domani il ministro della salute Roberto Speranza presenterà in Parlamento le linee guida del nuovo DPCM, quello che, oltre a prevedere la probabile proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio, potrebbe imporre nuove sanzioni, quindi l'obbligo di mascherina all'aperto, il limite di 200 persone per le feste private e il tema della chiusura dei bar e ristoranti alle 23. Le regioni potranno solo emettere ordinanze più restrittive, come già avveniva nella fase 1, quindi non più morbide. In Campania si è già deciso comunque che l'ultimo ingresso in pizzeria è alle 23, per gli, anche per l'asporto. 23. Ristoranti, pizzerie e altri esercizi, pub, vinerie, kebab e similari. Ecco, forse più il danno per i bar e i pub che per i ristoranti e le pizzerie. Mi sembra ancora un limite accettabile alle 23. Presto vi sarà un incontro con il governo sugli stadi e i teatri, ha anticipato Bonaccini, mentre l'agenzia di poco fa dice non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti e bar locali, come si legge su alcune testate, né di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco. Meno male, perché erano circolate tante. Poi vedremo cosa succederà, si naviga chiaramente a vista. Noi abbiamo più o meno 2800, 2900, 2000. Oggi i casi sono molto più bassi perché c'erano pochissimi tamponi, 60.000 tamponi. La Francia viaggia sui 17.000 al giorno, 16.000, 14.000, cioè siamo a livelli 4 volte superiori a quelli italiani, almeno. Per cui, insomma, è diverso il caso, e con un indice, al di là del numero di positivi, è l'indice sui 100.000 e sul numero di tamponi effettuati, che è molto alto in Francia, è sopra il 7%, cioè quanti sono positivi fatto 100 il numero di tamponi originali, non i controlli. Noi viaggiamo intorno a 3, insomma, anche lì sui 100.000 abitanti loro hanno stabilito 250, ci sono già arrivati, l'hanno già superato. Sono 260 contagi su 100.000 persone. Andiamo avanti con ancora due notizie. Dicevo, l'app Immuni. Allora, questa è la settimana in cui il governo parte con la sensibilizzazione per scaricare l'app Immuni, una campagna che terminerà l'11 ottobre, la seguirà anche Radio 24. È importante scaricare l'app Immuni. Ha già superato comunque la soglia dei 7.000 download, scaricamenti. 350.000 in più nelle ultime 4 giorni. C'è una mobilitazione nel mondo dei media e delle istituzioni per scaricare l'app. Nel frattempo, per quello che riguarda l'economia, al di là delle stime del DEF, il presidente Confindustria oggi, nel corso dell'evento organizzato dagli industriali di Varese, e mi riferisco chiaramente a Carlo Bonomi, ha detto: temiamo una perdita di PIL a doppia cifra, cioè non il 9% che stima il governo, ma il 10% o sopra. È stato un errore abbandonare il piano industria 4.0. Su questo oggi il ministro Patuanelli ha detto: ci servono circa 25 miliardi per sostenere tutta la parte di 4.0 con i rafforzamenti necessari. 4.0 era il piano lanciato da Renzi e Calenda, governo Renzi, per dare iperammortamenti e superammortamenti alle imprese che investono in digitalizzazione. Lo dico sempre, ma nel caso si andava dal 150 al 240%. Il vantaggio qual era? È che tu andavi in automatico in credito, cioè non avevi bisogno di passare per nessuna trafila burocratica, andavi in iperammortamento e superammortamento. E quindi era oltre che utile, perché le nostre imprese devono investire in digitalizzazione, era anche facile, era anche automatico, non c'era bisogno di nessuna trafila burocratica. Sentiamo Portonelli. Stiamo individuando le risorse necessarie. È chiaro che oggi, fino a quando nei prossimi giorni non ci sarà il quadro complessivo delle diverse progettualità dei ministeri, parlare di cifre è difficile, però sapete benissimo che c'è una forte necessità orientata in un range vicino ai 25 miliardi per sostenere tutta la parte del 4.0 con i rafforzamenti di cui stiamo parlando. Passare dal 12 al 20% di credito di imposta per la ricerca e sviluppo, ampliare i massimali, cercare strumenti per ampliare ancora di più la platea, soprattutto una forte campagna attraverso associazioni di categoria perché le imprese utilizzino quegli strumenti, perché le percentuali di utilizzo sono ancora troppo basse. Allora, su questo diamo anche, no, vedo che qualcuno mi scrive, firma la campagna, non proroghiamo lo stato di emergenza e no alle mascherine perché vanno contro gli articoli di pubblica sicurezza, ho capito, ma non firmare le multe, è un reato coprirsi il volto. Guardi, facciamo una bella cosa, non posso tornare sul tema, lei ovviamente è libero di lanciare e firmare tutte le campagne che vuole, però io così per prudenza aspetterei marzo e aprile, anzi aprile più che marzo, e vediamo come abbiamo sfangato, un termine poco scientifico, poco economico, questo inverno. Vediamo, magari le cose vanno meglio del previsto, c'è chi dice che forse l'utilizzo proprio delle mascherine ridurrà i contagi influenzali, quelli dell'influenza di stagione, vediamo. Io in questo momento non me la sento di dire che andremo avanti, cioè che faremo un autunno e un inverno dove non c'è da preoccuparsi, non mettete la mascherina, sai che non capisco veramente. Poi ad aprile potremo fare un bilancio, certo, sarei un po' più prudente così. Va bene, questa mattina il ministro Costa, è l'ultima notizia, a Radio 24, ha annunciato che in 10 giorni il decreto Terra Mia arriverà nel Consiglio dei Ministri e che per il dissesto idrogeologico in cassa, cioè senza aspettare l'Europa, ci sono 7 miliardi a disposizione. Allora guardi, le confermo che doveva andare stasera, ma c'è bisogno di qualche piccola rifinitura ancora, quindi andrà, penso, nel giro di 10 giorni possa approdare al Consiglio dei Ministri. Peraltro io ho già sentito gli altri componenti della maggioranza, semplicemente non c'è opposizione, vogliono capire fino in fondo, giustamente. Quindi, nessuna tensione con Orlando? No, assolutamente, no. Poi dai tempi in cui ero generale c'è un rapporto di stima, persona di standing Andrea Orlando, assolutamente. I fondi ci sono, in questo momento in cassa, quindi senza il recovery plan, stiamo parlando di circa 7 miliardi a disposizione. Se quindi i fondi ci sono, tutti vogliono risolvere il problema, vuol dire che ci sta l'acce e l'acciuolo di natura amministrativo-burocratica che impediscono la spesa. Decreto legge, oggi legge semplificazione, fortunatamente, ma è di agosto di quest'anno, fortunatamente già interviene per rompere questi meccanismi burocratici e per sveltire le procedure comunali, regionali e quelle ovviamente di finanziamento. E questo però è chiaro che essendo di agosto c'è un tempo tecnico di ricaduta materiale. Che tempi di operatività? Molto veloci, questo sarei abbastanza ottimista. Allora, ultimo, visto che parlavamo di mondo dell'agricoltura, ma anche in questo caso di dissesto idrogeologico e mondo dell'ambiente, la Coldiretti stima in 300 milioni di danni all'agricoltura e all'allevamento l'effetto del maltempo che ha colpito duramente la Val d'Aosta, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Abbiamo purtroppo raccontato di fiumi che hanno esondato, frane, smottamenti diffusi. Praticamente 70% del raccolto di castagne distrutto nella zona di Arnà, nella zona di Pont Saint-Martin, quindi Val d'Aosta, da campi, serre di verdure, alveari, addirittura strage di polli. A Imperia è stata persa un'olivia su tre pronta alla raccolta, un terzo dell'olio ligure viene stimato in difficoltà. Nel frattempo il Banco BPM ha annunciato un plafond ad hoc da 150 milioni di euro per sospendere le rate dei mutui e dei finanziamenti nelle aree colpite dal maltempo. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul meteo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, leggo assieme a te gli ultimi flash battuti, cioè le ultime agenzie battute in questi istanti, sulle bozze che sta circolando della revisione del documento economico-finanziario che stasera sarà analizzata dal Palazzo Chigi con una settimana di ritardo rispetto alle attese. E va a rivedere le stime su PIL, debito, deficit, come diciamo sempre la cornice in cui muovere far muovere poi la manovra. Dunque, però, c'è una cosa nuova, perché dicono che in caso di scenario avverso e quindi di un riacutizzarsi del Covid, il PIL quest'anno non farebbe il meno 9% previsto, ma un meno 10,5%. E fin qua, certo, non è una bella notizia, ma è ancora una variazione limitata. Invece il problema, Gianni, è che nel 2021 la crescita si fermerebbe all'1,8% contro il 6% dello scenario programmatico, e questa è una revisione di un terzo. Iniziamo magari da lì, poi se aggiungiamo anche, ho visto nella bozza, un'ampia riforma fiscale sui ceti medi e l'assegno universale ai figli. Gianni. Sì, no, il punto è esattamente questo, nel senso che la nota di aggiornamento al DEF è sempre un esercizio previsionale più o meno acrobatico, diciamo, a seconda degli anni, ma quest'anno le variabili in gioco sono particolarmente importanti. Come è successo ad aprile, il Ministero dell'Economia fa uno scenario, diciamo, avverso, gli ipotizza anche, oltre allo scenario di base, uno scenario avverso, che è quello di una possibile seconda ondata, non solo in Italia, ovviamente, come dire, in Italia la definizione di nuovi lockdown locali o comunque di limitazioni alle attività economiche avrebbe un impatto diretto sulla nostra economia, ma anche all'estero, perché noi siamo un paese molto concentrato sulle esportazioni. Allora a Parigi sta succedendo quello che sta succedendo, Madrid, Londra, Mosca, eccetera. Naturalmente questo contesto impone, diciamo così, di ipotizzare anche uno scenario più prudente. Ma qual è il punto fondamentale? Il punto è che lo scenario di base, quello con la crescita dell'anno prossimo al 6%, diciamo così, è molto ambizioso, ma indispensabile per indicare una flessione del debito pubblico in rapporto al PIL già dall'anno prossimo e poi nel 22, nel 23, eccetera, eccetera. Se invece si verificasse uno scenario più vicino a quello che abbiamo chiamato avverso, cioè con una crescita quest'anno ancora più bassa, crescita negativa ancora più alta rispetto al meno 9% dello scenario di base, e soprattutto l'anno prossimo una crescita modesta, perché lo scenario avverso sostanzialmente si dispiegherebbe anche nella prima metà del 2021, questo vorrebbe dire rinviare il rimbalzone, diciamo così, al 2022, rinviare quindi l'avvio della discesa del debito, che quest'anno sale fino al 158% del PIL, e avere una situazione di sofferenza nell'economia reale e nella finanza pubblica molto più marcata rispetto a quella dello scenario ottimista. Il problema è che non è solo, come dire, un esercizio teorico, perché appunto i segnali dall'andamento dell'epidemia in Italia soprattutto all'estero indicano che, diciamo, è qualcosa di un pochino più fondato rispetto a un esercizio meramente teorico. Allora, questo per quello che riguarda le prospettive di scenario. È chiaro che, insomma, era ambizioso il 6%, però adesso anche l'1,8, diciamo, è una bella gelata su questo. Dopo il traffico, vorrei capire invece le misure che emergono dalla bozza, appunto la quota 100 sappiamo che dovrebbe essere superata, ma anche le misure per quello che riguarda la riforma fiscale, come viene definita, oltre che rimodulazione anche riforma fiscale, confermata poi l'utilizzo delle carte anti-evasione, quindi e anche la premialità per il cosiddetto cashless, il gettito previsto meno 8% quest'anno e la spesa per interessi al 3,5% del PIL quest'anno. E mi interessa la parte fiscale, ma anche gli eventuali sostegni ai settori, ai lavoratori dei settori più colpiti. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Non conta solo dove siamo diretti, ma anche come ci arriviamo. Scopri la gamma Jeep Renegade e Jeep Compass, oggi disponibile in versione benzina, diesel e 4x plug-in hybrid. Nuova gamma Jeep 4x plug-in hybrid, tua da €249 al mese, anticipo 5.000 euro e con Jeep Flexi prima rata 1, 3 o 6 mesi. TAN 499, TAEG 614, offerta valida ottobre, soggetta ad approvazione FCA Bank. Info e condizioni su jeepofficial.it. Jeep, there's only one. Focus Economia. Allora, già ritrovati, al di là diciamo delle previsioni nettamente più basse nel caso appunto, ripeto, di un riacutizzarsi del Covid come PIL nel 2021, come sarà la manovra diciamo alla luce della bozza che sta circolando sulla revisione del DEF, la parte fiscale ma anche la parte che riguarda gli interventi a favore di alcune categorie dei lavoratori, di alcune categorie tra le più colpite? Sì, il cuore della manovra è esattamente quest'ultimo punto che dicevi, cioè ci sarà da rifinanziare gli ammortizzatori sociali e gli aiuti che sono stati portati avanti in questi mesi dai tre decreti anticrisi di marzo, maggio e agosto. Il rifinanziamento, nelle intenzioni del governo, sarà però più selettivo, cioè all'inizio, a marzo e maggio, così si è fatta una cassa integrazione per tutti, no? La cosiddetta cassa integrazione universale. Ad agosto si è introdotta un po' più di selettività, per il rifinanziamento dell'anno prossimo si dovrebbe concentrare sulle categorie di lavoratori, in particolare sui settori che risulteranno più colpiti dalla crisi del Covid, quindi immaginiamo insomma tutto il grande campo degli esercizi commerciali, ma anche alcuni settori industriali, anche sull'export, che sono stati più colpiti. Quindi non sarà più una cassa integrazione per tutti, anche perché i costi nel medio termine sono insostenibili, ma comunque il rifinanziamento di queste misure chiederà almeno 3-4 miliardi, certo, se non di più. In più c'è da rifinanziare il taglio al cuneo fiscale. I 100 euro, partiti a luglio, che erano finanziati integralmente solo fino a dicembre. In più ci sarà da rifinanziare una serie di fondi. Anche il taglio dei contributi, il taglio contributivo al sud, cioè per chi assume al sud c'è un taglio netto dei contributi da pagare. Infine, ci sarà da rifinanziare anche lo sconto del 30% sui contributi per i lavoratori dipendenti nelle regioni del Mezzogiorno, perché anche quello, introdotto dal decreto agosto, era finanziato solo a dicembre, quindi diciamo solo fino a dicembre. Il cuore della manovra sarà quindi rappresentato da una serie di rifinanziamenti di misure che sostanzialmente già ci sono, più un rilancio di Industria 4.0, cioè tutto il sistema degli incentivi fiscali alla innovazione, alla transizione digitale delle imprese, che era stato prima abbandonato, poi solo parzialmente ricostruito nell'ultimo anno e che dovrebbe avere un rilancio in forma, diciamo, in grande stile, anche grazie nei mesi successivi ai finanziamenti del Recovery Fund. Ma il punto, in estrema sintesi, disegnato dalla NADEF è il seguente: prima interviene la manovra, con le risorse italiane, cioè in verità con il deficit italiano, facciamo 22,7 miliardi di deficit aggiuntivo secondo il programma rispetto al tendenziale, e poi diciamo da metà anno in poi interviene l'effetto del recovery fund, tant'è vero che la spinta al PIL, quindi la spinta alla crescita attribuita al, agli aiuti europei, è maggiore, diventa protagonista a partire dal 2022. Nel 2021 invece tocca, diciamo, il compito tocca largamente alla manovra italiana e al deficit italiano, come accade con un anticipo forse del europeo, però se ho ben visto un anticipo di sì, però il proprio secondo gli sì, chiaro, ho visto del governo, il grosso di 21 miliardi, certo, tocca al deficit italiano. Allora, grazie anche a Gianni Trovati, andiamo sul GR24 349 2386666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mi piace giocare a pallamano, i giochi da tavolo. La fibrosi cistica spezza la vita. Sostieni la ricerca per i malati ancora senza cura. Cerca i ciclamini della ricerca su fibrosicisticaricerca.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Il pieno, grazie! Benzina o diesel? Relax e profumo! Le consiglio il freschissimo Arbre Magic Black Pine. Ah, essenza di muschio e legno. Scegli Arbre Magic. Arbre Magic, il profumo dei tuoi viaggi. Osserviamo la specie del negoziante nel suo habitat digitale. Il negozio senza pareti. Notiamo l'avvicinamento a nuovi esemplari di clienti. Grazie a Vodafone Business, infatti, ha sviluppato nuove abitudini, come le promozioni personalizzate e una vetrina online sempre disponibile. Il tuo lavoro digitale, le nostre soluzioni per arrivare ovunque. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vai su voda.it/negozio digitale. Ready? Mercedes-Benz presenta nuova gamma plug-in hybrid Q-Power, l'unica elettrica che è anche diesel oppure benzina. Potrai gestire la modalità di guida migliore in base al tragitto, aumentare l'efficienza, abbassare i consumi, scegliere di guidare in modalità completamente elettrica. Complicato? No, tanto fa tutto lei. Vivi la semplicità della guida plug-in hybrid e Q-Power. Con l'ecobonus Mercedes-Benz, oltre agli incentivi statali, puoi avere fino a 8.500 euro in caso di rottamazione. Scopri di più su mercedesbenz.it. Bonus casa 110%. La differenza tra chi ne parla e chi lo fa sta nell'esperienza e nei numeri. Gabetti Lab, esperti dell'abitare sostenibile. Gabettilab.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti. Adesso, prima di arrivare alla notizia che ha mosso anche la borsa, e vi arriveremo, quindi la fusione o l'accordo, scusatemi, per le nozze tra Nexi e SIA, che dovrebbero creare appunto quello che si chiama in gergo il player, un soggetto, diciamo, nel mondo del, mamma quanti inglesismi, del cashless, delle carte di pagamento di caratura europea, con una capitalizzazione superiore ai 15 miliardi. Su questo, ripeto, si è mossa la borsa e anche le poste italiane che partecipano a SIA. Vorrei restare in tema di macroeconomia, effetti del coronavirus sulle economie principali a livello mondiale, per introdurre l'appuntamento settimanale con Dietro la Notizia, che potrebbe andare sotto questo titolo. Ma in tutte queste numerose iniziative, penso all'Europa, alla Banca Centrale Europea, alla Commissione Europea, alla BEI, al sistema Sure, insomma, c'è un grande assente, di cui una volta si sentiva sempre parlare quando c'era una crisi che travolgeva economicamente alcuni paesi. Mi riferisco al Fondo Monetario Internazionale. Dietro la Notizia. Dunque, lo dico perché alcuni individuavano nel Fondo Monetario Internazionale il cavallo di Troia della Troica, ma qui non stiamo parlando di Troica, stiamo parlando delle quote che ogni Stato versa al momento dell'adesione al fondo. L'Italia ha contribuito con 15 miliardi di diritti speciali di prelievo, pari a 22 miliardi. Intanto ringrazio Alessandro Platerotti, editorialista Sole 24 Ore, come sempre, per averci raggiunto per l'appuntamento del lunedì. Buonasera Alessandro. Grazie Sebastiano, grazie a te, buonasera a tutti. Dunque, non è che io voglia l'intervento del fondo, ci mancherebbe, però ci siamo chiesti, ma c'è un silenzio assordante da parte del Fondo Monetario Internazionale, che insomma ha appunto i contributi dei vari paesi aderenti. Sì, questa è la più grossa polemica del momento per un motivo molto chiaro. Ogni volta che c'è una crisi di livello internazionale, soprattutto finanziaria, naturalmente, proprio dal nome Fondo Monetario Internazionale, parliamo naturalmente di crisi finanziaria. Ma il suo compito dovrebbe essere quello appunto di assistere i paesi in guai, nei guai, per uscire dalla crisi. Durante la guerra, la crisi del debito, quando anche l'Italia rischiava di andare fuori controllo, si è parlato molto di un intervento di sostegno del fondo a favore dell'Italia, diventando proprio quello che tu dicevi, i diritti speciali di prelievo. In estrema sintesi, sono la moneta che si paga fra nazioni per stare nel fondo monetario. Ogni diritto speciale di prelievo vale 1,3 milioni, grosso modo, per cui calcolando il contributo italiano, che è di circa 170 milioni, stiamo parlando di, appunto, come dicevi, circa 18 miliardi l'anno che non diamo di contributi. Qual è la forza di questi diritti speciali di prelievo? Che danno diritto a denaro contante senza alcuna condizione e nemmeno bisogno di restituire il prestito. Non è un prestito del Fondo Monetario, stile quello che è stato fatto con la Grecia. Ricordi il discorso della Troica, da noi è una certo. Molto queste cose. Ma in realtà nello statuto del Fondo Monetario è previsto esplicitamente che in caso di forte crisi i paesi membri, che sono 156 a livello mondiale, possono accedere a questi diritti e utilizzarli a prendere denaro contante. Voi immaginate 20 miliardi l'anno che cosa significa che abbiamo accumulato noi come diritti speciali di prelievo, visti che non li abbiamo mai utilizzati. Ma perché l'Italia non le usa allora? Perché gli altri paesi preferiscono indebitarsi sul mercato piuttosto che usare il DSP? E qui veniamo al dunque. Perché anche il Fondo Monetario è un'altra vittima di questa crisi del Covid. In che senso? Nella disruption, diciamo così, della confusione politica che ha creato, è passato in secondo piano la guerra al Covid per ritornare a quella che chiamiamo guerra fredda. E cioè, poiché l'aumento dei contributi, l'aumento di questi DSP a favore dei paesi è stato proposto non solo dall'Italia, ma soprattutto dalla Cina, che si è fatta portabandiera di questa richiesta di dare soldi gratis agli stati in crisi, è scattata l'America. E quella è la cosa grottesca. Per quale motivo? Non per non far arrivare i soldi alla Cina, ma perché sulla base della ripartizione delle quote nel fondo monetario, a chi andrebbe la maggior parte dei soldi? E qui veniamo alla sorpresa. Stiamo parlando 170 miliardi di dollari al governo cinese, in quanto si trova su 3 trilioni di riserve strategiche, che è quello che dà il conto di questi DSP. Quindi all'America non andava assolutamente bene che la Cina prendesse 170 miliardi di dollari gratis. Ma non solo, parliamo ancora, 20 miliardi all'Iran, questo sempre sulla base delle ripartizioni, non solo l'Iran, 75 miliardi di dollari alla Russia, 17 miliardi alla Siria, 20 miliardi addirittura al Venezuela. Beh, all'America poco conta che ci sia anche l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, certo, il Portogallo e la Grecia. Quello che gli interessava in questo momento era mettere una barriera all'arrivo di soldi nei paesi che considera ostili. Ancora una volta, questa guerra al Covid testimonia le divisioni che ancora rendono non solo difficile riuscire a uscire da questa emergenza, ma che soprattutto mettono una seria ipoteca sul dopo, perché la fiducia fra i paesi è arrivata al muro. Allora, è fondamentale questo, perché oltre alla quota dei 22 miliardi di adesione ai diritti speciali di prelievo messa dall'Italia, noi nel 2011 il fondo ha chiesto di aumentare le risorse perché ha dovuto aumentare i prestiti in paesi in crisi, Grecia, Portogallo e Irlanda. L'Unione Europea ha contribuito erogando complessivamente 150 miliardi di euro, e le principali quote sono state Germania 41 miliardi, Francia 31, Italia 23. La Gran Bretagna non ha contribuito. E il ragionamento che faceva Alessandro Platerotti è chiaro che a questo punto tu potresti chiedere, e per noi varrebbe qualche centinaio di milioni di euro, di accedere subito senza tante procedure all'utilizzo di parte di queste risorse, ma visto che il vantaggio più grosso andrebbe alla Cina e all'Iran, si è messa di mezzo l'America e quindi di fatto non si è arrivati a nessun accordo sul Fondo Monetario Internazionale. Uno potrebbe dire, beh, ma sono poche centinaia di milioni. A me sembra che con questi chiari di luna in Italia forse anche qualche centinaio di milioni potrebbe servire. Grazie ad Alessandro Plateroti. Mentre non capisco, e lo dico prima di andare sul traffico, alcuni ascoltatori che continuano a chiedermi, a scrivermi per favore, mi suicido, comunque no all'imposizione della mascherina all'aperto. Ma sa che adesso io non ho ancora visto la decisione del governo, ma non capisco delle volte perché, cioè, questa mascherina all'aperto sarà fastidiosa, quello che volete, ma non è mica una tuta da scafandro. Tra l'altro potrebbe anche restare come buona abitudine quando uno è influenzato al raffreddore, così evitiamo anche di passarci le influenze di stagione, non lo so. Mi sembra che con tutti i casini che dobbiamo affrontare, in primo luogo di carattere sanitario, ma subito dopo di carattere economico, il tema del fastidio della mascherina all'aperto, che ti protegge magari anche dall'inquinamento se stai a Milano o in altre aree del paese, non mi sembra la cosa più pericolosa e peggiore in questo momento. Mi sembra molto peggio quello che ricordavamo in apertura, in finale della prima ora, cioè quello che è presente nel NADEF, nella revisione del DEF, che se lo scenario del Covid dovesse peggiorare, e adesso la riprendo perché ancora rimasto perplesso, vi sarebbe un peggioramento nei conti e nella prospettiva di crescita dell'anno prossimo, che dal più 6% passerebbe al più 1,8%. Questo mi sembra il vero tema, oltre che il tema sanitario, il tema del blocco. Eccolo qua: nello scenario avverso di un riacutizzarsi del Covid, il PIL quest'anno farebbe meno 10,5, anche meno 9, così il governo nel DEF, e l'anno prossimo farebbe più 1,8 invece che più 6, perché chiaramente ti beccheresti una parte di strascico, da come la capisco io, in tutti i primi mesi del 2021. Vabbè, andiamo sul traffico, dai. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento Focus Economia. Dunque, tra gli interventi della manovra finanziaria, quella a cui serve fare appunto la revisione del DEF, però non ho capito perché qualcuno mi sta scrivendo vergognati se ti piace la mascherina. Guardate che non è che siamo noi aver voluto il Covid o aver ritenuto che la mascherina serva come prevenzione, ma sapete che non capisco veramente. Cioè, a me sembra che l'obiettivo più importante sia non arrivare a un nuovo lockdown, e se possibile neanche parziale, neanche mirato, neanche come in Francia o come in Spagna, se possibile. Questo mi sembra la preoccupazione più forte dal punto di vista economico. Non mettere la mascherina quando esci, se questo mi può permettere di tenere i casi a un livello accettabile e non arrivare a, diciamo, coprifuoco, chiusura alle 11, alle 10 e quant'altro, dai. Comunque, dicevo, tra i piani del governo, ne abbiamo parlato molte volte, c'è il piano cosiddetto cashless, quindi per stimolare l'utilizzo delle carte al posto del contante, in modo da evitare anche il nero, e comunque è un piano chiaramente anti-evasione. Vedremo se arriverà in 3.000 euro per le prime 100.000 persone che nell'arco di 6 mesi avranno effettuato il maggior numero di transazioni. Quello che è chiaro che invece il cosiddetto cashback, cioè i soldi che ti verranno ridati, prevede la restituzione del 10% delle spese sostenute con rate semestrali per un ammontare massimo di 3.000 euro. Devi fare però almeno 50 transazioni ogni 6 mesi. Il massimo di 3.000 euro è perché il 10% delle spese sostenute, lo dico perché qualcuno mi ha scritto, allora io compro 50 caffè in 6 mesi con la carta, sì, ma non ottieni 3.000 euro, ottieni il 10% di quello che hai speso per 50 caffè, quindi immaginando che caffè sia un euro e tu abbia speso 5, hai mangiato 50 caffè, hai speso 5, hai bevuto 50 caffè, hai speso 50 euro, otterrai 5 euro. Ma ne parliamo per un altro motivo, perché è arrivato via libera nella fusione tra Nexi e Sia, due grossissimi operatori nel settore proprio dei pagamenti digitali. una realtà da 1.800 milioni di euro di ricavi, quindi un player italiano, un soggetto italiano ma di dimensione europea, che capitalizza in borsa 15 miliardi, diventerebbe la nuova società, una delle prime 10 sulla borsa italiana quanto a capitalizzazione. È coinvolta anche la Cassa Depositi e Prestiti, perché un percorso prevede che gli azionisti di SIA ricevano 1,56 azioni di Nexi per ogni azione di SIA. Gli azionisti di SIA avranno il 30% del capitale del nuovo gruppo, gli azionisti di Nexi avranno il 70%, ma CDP che entra avrà una quota complessiva del nuovo gruppo del 25% e Mercury, il veicolo di fondi, il 23%. Allora chiedo chiarimenti a Laura Serafini del Sole 24 Ore. Buonasera Laura. Buonasera a voi. Quindi l'operazione è Nexi SIA, però dentro ci sono anche nella sottoscrizione il Mercury, che è il veicolo del private equity Bain Capital Advent e Clessidra, e la Cassa Depositi e Prestiti. Poi ho visto che ne ha un beneficio tra virgolette anche le Poste Italiane, perché in borsa vanno bene, perché avranno un beneficio da questa operazione calcolato in circa 400 milioni di euro più 4,55%. Qual è l'obiettivo del nuovo gruppo e dove opererà? Perché poi dire pagamenti o paytech italiana vuol dire tutto e niente. Prego Laura. Allora, dunque, innanzitutto andrebbe spiegata la ragione per la quale ormai sono qualche anno che si parla di questa fusione e finalmente pare essere arrivata. Perché è in atto a livello europeo un grande processo di consolidamento nel settore dei pagamenti, che sta ovviamente accelerando perché, come tu hai parlato del piano cashless, è perché stanno sviluppando i pagamenti elettronici. Tra poco tempo supereremo anche il sistema delle carte, e quindi il settore sta avendo un grande... Cioè attraverso gli smartphone, quindi... Esattamente, tutto sarà molto più concentrato sull'utilizzo dei cellulari per fare i pagamenti. E quindi, ma questo è uno dei tantissimi aspetti, no, connessi a questo settore, quindi chiaramente a livello europeo si sta muovendo questo grande consolidamento. C'è stato di recente in Francia con il merger tra Worldline e Ingenico. E quindi chiaramente anche in Italia c'era questa pressione per cercare anche di andare a proteggere quelli che sono gli asset di questo paese. Nexi era già finita appunto in mano a questi fondi esteri, per SIA si parlava prima di una quotazione, poi di tentativi di aggregazione all'estero con altre società. Alla fine si è riusciti ad andare appunto al matrimonio con Nexi, che forse insomma era quello più principale, più interessante, e che adesso crea un polo che è a 360 gradi, perché Nexi ha l'attività più commerciale, quindi le carte di credito, cioè le carte le di pagamento, carte, sì. Ma anche i circuiti di pagamento, sì, no? L'acquiring, quello che si chiama acquiring. SIA è una società che più che altro gestisce infrastrutture, piattaforme, quindi è da tantissimi anni presente sul mercato. Addirittura quando fu fondata c'era la Banca d'Italia nel capitale, no? Perché ha creato tutto quel network interbancario, e quindi la stessa SIA oggi fornisce servizi alle banche centrali, alla stessa Banca d'Italia, e fornisce supporto a tutti quegli operatori che stanno entrando nei pagamenti elettronici, quindi la stessa Poste, ma anche l'Enel, che adesso debutterà a metà ottobre proprio nel servizio dei pagamenti e quant'altro. Quindi è un'integrazione tra due settori nello stesso comparto, ma con finalità diverse. Allora, che però creano un soggetto, appunto quello viene fatto notare da tutti, di dimensioni europee, perché 15 miliardi di capitalizzazione, ma comunque 1.800 milioni di ricavi, sei un soggetto di dimensioni europee. Tu spiegavi i due fronti che vanno a saldarsi, cioè la parte più di commercializzazione e quella che noi vediamo tutti, Nexi, con la parte invece di infrastruttura, passami il termine. Di SIA. Da questo punto di vista qualcuno mi chiede, ma si è poi parlato del ridurre le commissioni, qui però non c'entra la fusione, attenzione, se ho ben visto si va verso questo, qui c'entra il governo nella manovra, scusami se ti interrompo, con la riduzione delle commissioni il governo non ci può entrare per un motivo ben preciso. Okay. perché è un settore, diciamo, di libero mercato, non può essere amministrato dal governo, ed è uno dei motivi per il quale su questo tema di come ridurre le commissioni si discute da oltre un anno. Nexi in realtà è uno degli operatori che è andato a Palazzo Chigi insieme agli altri operatori di acquiring per il progetto, il piano cashless, e quello che accadrà è che a fronte di una prospettiva di aumentare il numero delle transazioni, perché ovviamente dai tutti questi incentivi, quindi ti aspetti che il numero aumenteranno, gli operatori dicono: bene, allora io sono disposto a ridurre i costi delle commissioni perché mi aumenteranno i margini di guadagno su questa attività, e l'ipotesi è che ognuno faccia una proposta su base individuale, ma si vada verso costi zero almeno per le operazioni tra 0 e 25 euro. E 25 euro, almeno... sì, quella era uscita, infatti. Come proposta, hai ragione a ricordare che non può essere il governo a regolare, diciamo, un'operazione di mercato, però hai anche ricordato come l'incontro proprio con il governo ha visto i principali operatori, quindi le maggiori banche, i circuiti della carta di credito, un impegno a ridurre, intanto, quindi la dico male, insomma, zero commissioni per le spese fino ai 25 euro, o addirittura c'è un'altra proposta, zero fino a 5 euro e quasi zero per tra 5 e 25 euro di commissione. Tra l'altro sappiamo che in molti esercizi commerciali proprio la soglia dei 25, dei 20, dei 15 euro viene messa in maniera arbitraria ma legittima, e si dice: guardate, non si accettano pagamenti sotto quella soglia, perché evidentemente non c'è una non convenienza dal punto di vista dell'esercente. Quando sbarcherà, ultima domanda, Laura Serafini, la nuova società in borsa? La società è in borsa. Sì, nel senso che di fatto sono già in borsa. Sì, no, nella nuova configurazione societaria, mettiamola così. Adesso quello che è stato firmato in questi giorni, ieri sera, è un memorandum of understanding, quindi c'è l'accordo per andare a fare questa operazione. E siccome l'operazione poi è vincolata via libera antitrust e quant'altro, sarà appunto legata ai tempi tecnici di autorizzazione, ma penso che ormai si parla, insomma, di termini, settimane, mesi, non di più, insomma. Allora, grazie anche a Laura Serafini, ed è tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna in onda domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.